per il controllo. Ciao Carlo. E chi è? Natalino, sono Carlo. Natalino, c'hai il volume basso basso, quindi dimmi. Cosa c'ho? Carlo, mi senti? Natalino. Ci siamo sovramodulati. Ho detto se mi sentivi. Sì, qua arrivi a fondo scala da me, Natalino. Radio 5 è fondo scala. Sono a zero. Quanti watt stai uscendo? 5. E allora, sono basso basso adesso. Peccato che non hai un apparato che ti permetta di attenuarmi, se no avrei alzato a vedere se si vedeva la differenza. E con questo non è che riesco a fare più di tanto, capito? Qua giusto l'indicazione, c'ho 9, 5 tacchette e poi un 10 finale, capito? E cappa. È il microfono amplificato. Aspetta, forse è troppo alta la televisione. Perché si sente tutto il sottofondo della musica del televisore. E mia moglie che ha alzato la televisione. Ho capito. E con la questione antenna sei sempre così in stand-by. E mi è arrivato l'accordatore oggi e lo stavo provando, capito? Ah, su quella vecchia che hai di antenna. Ehi, già accorda. Eh sì, dovrebbe toglierti anche le stazionarie e l'accordatore, se non sbaglio. Sì, sì, questa accorda anche un cacciavite. Bene meda, bene meda. E come va collegato quello, Natalie? Come un normale roadmaster va collegato. E poi ci sono le manopole per poter accordare, no? Si segna le stazionarie che ha e poi le abbassi con l'accordatore. Quindi uguale al rosmetro, diciamo, la discesa dell'antenna sull'apparecchietto, poi l'uscita va alla radio e fai le correzioni con le manopoline. Sì signore. Già è utile allora, dai, perché però te lo devi lasciare collegato in parallelo con la radio, così. Lo devi lasciare attaccato alla radio. Aspettami, te lo faccio vedere. Guarda il telefono, Carlo. Sì, lo sto guardando, Natalia. È bello, bello grande. Bello, è tutto bello illuminato. E c'ha praticamente trasmissione, antenna, ho visto. E l'altra manopola serve per regolare le frequenze. Ma quindi questo copre diverse bande, Natalia? Ti ho risposto di lami. E te credo. Era uguale, stessa marca e tutto a questo, quello che ho dato a quell'amico mio, capisci? E ho capito, Natalia. Sì, sì, con la questione del nuovo digitale terrestre, praticamente le vecchie bande, quelle che erano in VHF, sino ai 700 MHz, ne sa, quelle le hanno tutte assegnate per il 5G, penso la telefonia e altre strumentazioni. Quindi adesso si trasmette solo in UHF, mi sa, i nuovi segnali del digitale terrestre, dovrebbe essere così come dicevi. Sì, infatti. Poi c'è l'antenna nuova, adesso come finisco di fare tutte queste visite che devo fare, me la piazzo, trovo una giornata bella e me la piazzo. In questi giorni il tempo è buono, però c'è molto vento, perché stamattina io ho fatto il turno di notte, sono uscito alle 5, 5 e mezza da casa, mi sono buttato a letto sino alle 10, 10 e mezza, poi sono dovuto andare a Bonorva e sono salito anche su nel terrazzo di casa di mia suocera, c'era un vento teso ma potente, capito? E ancora è così, sta andando, infatti l'antenna che ho io sul tetto mi oscilla, però solo la parte finale, il resto è tutto bello fermo. Oh, è un'antenna bellissima quella che hai tu. No, è di lusso. Poi anche per la robusta, poi il fatto che ci siano due radiali collegati la rende anche abbastanza stabile, capito? Quindi con le oscillazioni. Però ci ho messo alla base un tubo da la 40 e dentro ci ho infilato l'altro che avevo di telescopico, capito, e gli ho saldato due bulloni, gli ho fatto la filettatura anche al tubo e praticamente mi ho allungato quello che avevo perché mi sembrava troppo sottile la base, invece così è bello, è un tubo da 3 mm di spessore di quel ferro zingato e l'ho trovato buttato giù nei corridoi dei garage, capito? L'ho tutto pulito con la spazzola, sembra nuovo adesso se lo vedi, e regge bene, capito? Sono riuscito a fissarlo alle zanche che ho sul muro, ne ho messo una in più e quindi ce n'è una alla base, una circa un metro e mezzo e l'altra a metà tra le due, capito? Quindi ha voglia di essere stabile. E te credo, bastavano due tappe solo a 1,20 m di distanza una dall'altra, ma se ne hai messo tre, figurati, già si muove domani. Dopo io ho problemi, praticamente svizzo i bulloni, mi abbasso lo stilo, quello centrale, mi si abbassa e riesco ad arrivarci, praticamente dal tetto è a circa 4 metri e mezzo dal tetto proprio grande, invece dal tettuccio di quella casettina che c'è sopra il tetto, da lì sono a 2 metri e mezzo, capito? Però va oltre anche le antenne TV, però io ce l'ho collegata, abbiamo l'impianto centralizzato e se esco con 4-5 watt non disturbo niente. Ho provato a aumentare un po' la potenza modulando in SSD eccetera, però non crea nessun disturbo. Poi non so se aumentando potenza può causare disturbo, ma non credo, perché irradia proprio nella parte finale, capito? Gli ultimi 3 metri che sono oltre le antenne TV, quindi non dovrebbe creare nessun disturbo. No, poi in SSB, in FM non disturbi. Quando uno disturba può disturbare in AM, ma adesso si sono spostati anche di frequenza, capito? Quindi sono ben lontani, adesso è difficile che disturbi. Qua non si è fatto vedere più nessuno. Meglio così magari la possibilità di modulare più tranquillamente, capito? Senza metterti troppi problemi di disturbo. Poi sicuro al 100% lo sarò quando metto l'antenna nuova, quando metto quell'antenna che non ha né radiali né nulla, è di luce. Poi la metto più in alto di 4 metri, quindi non c'è problema, e almeno mi diverto un po' facendo di ecco. Eh sì, lo credo, con quella. Per esempio Giulio, che tu conoscerai anche prima di me, no? Che se non sbaglio lui ha una Game Master lì alle punti, c'è da parecchio che non lo sento Giulio, però non so che radio usasse, ma io lo sentivo anche sino a Bonorfa, capito? Lui modulava, una volta sono passato da Giave, l'ho sentito anche là, che modulava tranquillamente, arrivava anche bene, Santiago 7-8, capito? Era la Game Master lui, ce l'ha anche bassa, non è molto sopra il tetto, capito? Lo so, non c'è problema, lo conosco sia Giulio. E infatti io dovrei essere più in alto di lui, quando la metto 4 metri più in alto dovrei uscire bene anche io. Ma tu dovresti, se la sollevi un po', esci anche parecchio fuori Sassari, sicuramente, se riesci a portarla più in alto, perché dentro Sassari arrivi bene ovunque, ma anche penso anche fuori. Io a volte ti ho sentito, anche se ultimamente tu parli poco per quel problema là, comunque già ti sento anche sulla 4 corsie eccetera, capito? Non so se riesco a sentirti sino ad Alghero, ma immagino che tu arrivi tranquillamente con la tua radio. Sì, quando avrò l'antenna nuova lo vedi, se mi senti, li senti le matracche. E infatti quando la installi così facciamo le prove, capito? Con quella poi dovresti disturbare ancora meno, perché quella non ha i radiali nemmeno, capito? È lo stilo lungo, una sorta di dipolo quello, e quindi disturbi ancora meno con quella. quella. Ma soprattutto ricevo anche meglio, perché è molto più silenziosa. Questa prende un sacco di QRM. QRM è ultimamente un po' alto, perché anche io ne ho parecchio, capita? Secondo delle ore ce n'è tanto, poi cala di colpo, quindi i segnali bassi è difficile sentirli, anche perché con questa radio non è che posso fare chissà quali regolazioni. Ho visto che ci sono delle radio che praticamente attenuano anche il disturbo da QRM, capito? Quelle buone ovviamente. Io ho l'omologato qua, il Superstar, che c'ha tutte le regolazioni. Quella è un'ottima radio. Io non l'ho aperta, se no c'ha 271 canali, puoi aumentare la potenza, macchine, c'ha tutto. Tipo, sì, ma quelle della CRT sono, Natale? No, queste sono meglio, questa qui, perché c'ha lo smitter a lancetta, e di quelli antichi, poi esce bene, va, è di uso veramente meraviglioso. Ne ho capito. Questo che ho io si può fare, ho visto che è anche semplice, capito? Devi solo aprire piano piano, e poi non devi fare nessuna saldatura. Praticamente c'è un'uscitina dove tu ti colleghi con un tasto reset. Il tasto reset è, per esempio, quelli dei computer, no? Quando tu devi resettare un computer, tieni premuto un certo tastino e il computer si resetta. Se tu, per dire, hai qualche computer vecchio, lo apri e quel cavo lì si può togliere, o altrimenti li vendono, costano 75 centesimi su eBay o su Amazon, e ne ho un paio. E praticamente, una volta che puoi riaccendi la radio, tieni premuto quel tasto lì e ti dà la possibilità di farla diventare questa, 10, 11 e 12 metri, capito? E ti tira su anche la potenza, però ovviamente facendo quello, già lo sai, vai incontro alla perdita dell'omologazione, capito? Lo so, anche il mio se lo apro, io adesso ho 40 canali solo, e basta. La potenza 4 watt c'ha, però se lo apro perdo l'omologazione, perché si possono mettere i canali, si può mettere tutto, c'ha la banda laterale, c'ha tutto. Tipo questo qua, questo stesso c'ha la banda laterale, questo esce in AM, FM, 4-5 watt, sarà 4 più che 5, in SSB invece arriva a 10-12 watt, è un pochettino più potente. Ho capito, io ho regalato due apparecchi a un amico, che tu li dovevi vedere solo. Uno che dà 60 watt addirittura, adesso non mi ricordo come si chiama, l'altro lo stesso era di quelli di Pomanium, sono. Ho capito. Quelli lì hanno la potenza, se non sbaglio, che è regolabile, non è fissa a 60 watt, vero? È regolabile, ma erano dei muscoli. Li ho regalati perché qua non li potevo usare, se no ballavano i televisori su quel quartiere. E ho capito. Infatti, quando è così, però conviene sempre tenerne uno a posto, capito? Non si sa mai, capito, che arrivino e tu gli fai vedere quello e sei a posto e tranquillo. Lo so. Dieci, non c'è nessun altro, Natale. Ma non ho sentito nessuno, caro. Adesso io dovrei fare cose che devo lasciare, purtroppo chiedo il permesso di QRT. Al limite ci sentiamo alle prossime. Dai, ciao Carlo, alle prossime, grazie per il QSO. Via Natale, non ti preoccupare, io già sono a casa in ascolto anche stasera, se entri intorno alle 7, così più o meno dovrei esserci. Alle prossime, ciao Natale, buona serata. Altrettanto, buon proseguimento, ciao ciao Carlo. Hola. macchina dentro. Lasciamo che tutto va bruciato tutto. Sono ternaloie. E sei benito? Non mi hai riconosciuto, basso sono. Basso basso, sì, no, più di 9. No, 9, Santiago 9, arrivi benissimo. Io sento opera di alternata, cazzo. Adesso no, prima stai fischiando, ma sei a casa tua. Ehi, sì, il cavetto, perché ho appena rifatto il cavetto, massa, dai, il microfono. Arrivi benissimo, quindi a casa, io sono al monte, eh. Arrivi benissimo. Fa un passaggio, io non ti ho guardato a te. Uno, due, tre, prova, rifai, tu mi sai che sei 9, vai. Uguale, tu sei 9, proprio lo sciuri. 9, Santiago 9, radio 5. Allora, tu sei 8, prova in negativo, prova a fischiare. Come va tutto positivo, va? Ehi, vai, qua c'è detto canale 9, ci manca poco, come me, uguale a me, sì, dai. So, io sto uscendo con 6 watt, non so quanti. Allora. 10:40. Vedi un po', comunque arrivi bene, Ma hai fatto qualche modifica all'antenna anche? Sì, ma ci dovrebbe smontare, forse era, siccome c'è il bussolotto tra l'antenna e il capo dell'antenna che viene qua, e allora appena appena sai quella leggera polverina tipo di ossido. Ah, ecco, di lusso, adesso vai, no bene, no, benissimo, se sei a ottava arrivi bene, benissimo, molto molto bene. Sì, però adesso usando il 1x140, l'altro non lo so, io mi sono ascoltato con l'altro, a uscire esce, però come si dice, non oscilla come deve oscillare. Ho capito, come si dice, questo non lo so, comunque ho 140 arrivi bene. Allora sì, in fede sì. Ma cosa cazzo in fede, cazzo, che è venuto a trovarmi gente e poi dopo 4 giorni ma gli è arrivata la febbre, allora mi hanno chiamato. Hai fatto il tampone? Aspetta, ripeti, mi stavo prendendo la sedia, ho fatto rumore, non ti ho sentito. Ho detto, hai fatto il tampone? Subito, dalla sera, subito. Subito, il tampone è negativo, adesso domani mattina vado in una farmacia e mi faccio l'altro tampone, perché dalla ditta vogliono il foglio, cazzo, vado da, come si dice, dalla farmacia, più attendibile, perché io mi sono fatto quelli fa da te. E se il risultato è positivo? No, negativo. Ma quelli fa da te, no. Oh, vabbè, dipende. Io ho fatto farmacia, adesso positivo. Devo stare fino a lunedì a casa, cioè lunedì vado a farmi l'altro tampone, se sono negativo posso uscire, altrimenti devo continuare. Sì, quello sì, è vero, devo continuare la quarantena. Se posso fare, diciamo a posto a casa di tua mamma, ricazzo mi nato vola, adesso quindi andà, purtroppo sono messo in camera, purtroppo devo uscire, devo andare in bagno, la devo mangiare, cazzo. Ma infatti, tua madre ha fatto fare via subito. No, tampone mamma no, assolutamente no. E come faccio a portare la mamma a fare il tampone? Quanto non posso uscire? Guarda, io ho visto che quelli in farmacia sono anti di briccocina, non ti diciamo, sono prezzisi. Questa è un'isola, ma li compare già in chibi. Se magari un euro decidi di vendere a 15 euro. Vabbè, no, 6,50 euro costano. Ma è facile da fare? Facilissimo, e ci sono anche le istruzioni. Non lo so, io ho avuto non posso avere contatto nemmeno. Non lo so, adesso vediamo un po'. È che non può venire nessuno neanche qua. Un casino, Beni, è un casino. Scusa, non può passare, ti ripeto, da quelli di cucina e cose quelle, e te lo fai tu, te lo fai. Te lo fai appoggiare nella porta di casa e poi ti umili. Vabbè, no, rubini in farmacia, quella bricocina, poi sono prezzisi, rubini in farmacia comunque, la bricocina lo paghi 1 euro, fa dire 2 euro, no che lo paghi 6,50, magari se ne affutti, non interessa, questo lo fa, ma non bene. se non ho contatti con mia madre, capito? Sono qua in camera, infatti gli ho detto di non entrarci qua e di non chiamarmi, di chiamarmi a voce. Se io devo uscire mi metto la mascherina ed esco fuori. Sì, quello sì, però ti ripeto, quelli che compri in farmacia e quelli che compri da Eurasia sono una stessi, capito? Sono gli stessi. Per quello che sto dicendo, siccome io l'ho fatto e sono negativo, chi è venuto qua lo ha fatto ed è positivo, gli stessi coso, cioè gli stessi tamponi, a lui è risultato positivo ed è positivo. Ho capito. Dugazzino. Praticamente devo uscire una lineetta, giusto, sulla C. Sì, sulla C. Devo uscire una lineetta. Cosa ti volevo dire? Non mi sono dimenticato. Tu però c'hai il sintomo, perché io non c'ho un cazzo. Tu sei sintomatico e hai avuto febbre, la gola, tosse. Vabbè, poi qualche scarichetta, niente di... sì. Nulla, io niente di tutto questo. Tu pensa, io c'ho ancora il furgone carico, quando mi hanno visto, stavo lavorando. E vabbè, ma se sei negativo. Infatti, sono negativo. Però per sicurezza, quindi, non sono affidabili molto quelli, lo dicono. Comunque, io avrei fatto quello che ho fatto io, sono sicuri quelli, quindi ce lo costa. Sì, ma infatti ti sto dicendo, Lu, adesso io domani mattina vado in una farmacia, la prima farmacia che trovo, e chiedo se lo fanno loro il tampone direttamente, se no cambio farmacia e vado dove lo fanno. Beh, certo, certo. E poi si sente dalla voce che sono un po' messo male. Poi ho un'altra medicina per la gola, un cazzo. Ma quale effetto non ne ha fatto? E ti preso un po' cudina, per carità. Ma infatti, quello ti voglio dire, io non c'ho niente, per me, io non c'ho niente. Perché tu sei così, vedi, a te ti ha dato la febbriciattola, ha dato, ecco, gli stessi sintomi che ha dato a chi è venuto qua a casa. Uguale, uguale, quindi. Loro sono positivi. Sì, ma... Ah, ecco. Guarda, io ti dico un'altra cosa, io ho contatto con la mia compagna, il giorno che sono andato ho detto non so se è vero, non mi sento bene, sono andato, ero con lei, praticamente poi l'indomani ha avuto la febbre, ha fatto il tampone negativa. Appunto, se tu vuoi vaccino, cazzo, vai contro il vaccino, vai arrivare a Zulfi, ma ti contagia lo stesso, secondo me ti stava molto duro. Ma, lo so. Sicuramente fa quegli azioni di distributivo, vabbè, a spendere in farmacia, vabbè, andate a finire le farmacie, adesso sì che stavo lavorando, mi scherza, a ruota. Ciao, Beni. Ciao, Cla, buonasera. Vabbè, risolto, ciao, Lupo, risolto il problema della radio, a posto. No, Cla, la radio esce, ma non mi dà l'oscillazione del 140, capito? Sto usando il 140. Ah, sta Luba, quando benissimo, no, per Radio 5, beh. Io sto andando col 430, e Radio Vicino, bisogna vedere di cosa c'è, se c'è qualche falso contatto, qualcosa. Infatti io, prima di rispedirla di nuovo, la voglio far provare a qualcuno, a vedere sia che io, perché aspetta un attimo mio. Il bussolo che io ho nell'antenna c'era appena appena di quella polverina di ossido, non vorrei che ha causato qualcosa. Vedi, tante cose possono essere, io non so questa cosa di tu, vediamo anche di molti anni, se ti capita volentieri te la do uno sguardo, non c'è problema, assolutamente, io ce l'ho uguale, ce l'ho anche 140, per questo ho trovato. Poi gli hanno spedito la T250, ho avuto un culo, vedi che non ti dico, qualche graffietto, ma nuovo, nuovo, funzionante, ho avuto un bel culo, un prezzo molto, molto modesto, così mi completo la linea 140 anch'io, capito, vedi, non lo so, boh, farla avere a Tino, non lo so, se ti capita qualcuno. qualcuno che me lo possa far avere. E io non sguardo te lo volentieri, ma sguardo a livello di provartelo, e non è che io tirarlo, ti controllo, no. Non sono più all'altezza di fare certe cose bene, capito? Però uno sguardo ci può dare a vedere cosa ce lo fa anche qua il difetto mio. Sì, claro, è proprio così. Giusto, a provarlo, già stanno, se vedo quando vuoi in ghivi, è la radio, boh, basta. Capito? Perché ragazzi, non te lo spedisci, poi arriva lì, ti prendono i soldi, non te ne ha fatto nulla, e ti dici che te ne ha fatto altre cose, invece, vieni, prima di mandarlo, ci togliamo la curiosità, no? Poi dallo occhiatino, insomma, chi conosce queste radio, chi ha insomma un impianto serio, glielo fai provare, se poi non ti fidi lo vai a mettere, lo provo io e faccio la comparazione col mio, le metto tutte e due, tanto so io c'ho il commutatore d'antenna, commuto uno e l'altro, vedo dove, se c'è il problema, se non c'è il problema è un problema tuo, vedi? Appunto, sì, ma aspetta, avevano fortuna perché sono, come dire, quarantena cautelativa. E anche io gioco già in sessantena cautelativa, ho passato in treno, quindi sono ancora a casa, neanche io, infatti ti ho detto, con questo Covid adesso non possiamo fare niente, usati 140 appena siamo liberi un po' da questi impicci, te lo fai avere e te lo provo, capito? Non c'è problema. Dai, che facciamo il prendere a Luca, non ping pong. Io già aspetto, non sono di quelli, così mi riposo anche la gola, riprendi là. Luca no, non ha problemi, non è te, riprendi Luca, ripiglia l'altro, e aspettare il primo, se c'è un coso che si sta scambiando un'idea, e vuol dire c'è un problema, tu appena sai, se puoi me lo fai avere, e io volentieri te lo controllo, lo metto a fianco al mio, e vedo un po', capito, se il mio è perfetto, questo è perfetto, intendi, non sto usando manco il 60, sto usando l'MC50, quindi come vedi, è perfetto, c'è già di perfetto, a dire che è perfetto è poco, a dire che è nuovo non ne parliamo, non ne parliamo da vetrina, perché questo era di una persona che ci tiene tantissimo, non c'è un graffio, nuovo di fatto, quindi io lo metto a fianco qua e ti dico, è così o è pomì? C'ho la pompugno, ti mette solo regola con l'abitatore. Senti anche la vasellina del pomeriggio. Io tra l'altra volta, fatti sentire, che andiamo, ci ritiriamo il pezzo, c'è due bici a ritendere la telefonata da Zoia, ma io che andiamo, visto che ero in ferie. Il pezzo quello là? Quello là. Ma poi, ma ripeto, dobbiamo andare assieme, ma fammi già pegando quando vuoi andare a un pari. Ah, vuoi dire che ce l'hai ancora in giro quella cosa? Boh, minchia, che... Allora, qua, un coso doveva cambiare, un condensatore, che io non ci riuscivo, non c'avevo perciò il dattore giusto una volta. Ma sempre da quel condensatore è ancora riuscita la cosa. Come sia, non lo so, questo lo ignoro. Dove sia? Ah, boh, manco io lo so. No, sia dove sia e come è, non lo so. Non so, mi dubbi comunque. Vedi, tra tutti, io sai che è un po' di anni che non mi metto in mezzo ai cazzi di nessuno, ma sto molto molto meglio, però queste cose, cioè, se si danno a riparare, si riparano e si restituiscono. A meno che uno non lo voglia tenere per fare delle prove tecniche che non sa mai che faccia difetto, ma che altrimenti sono vedene di anni. Appunto, sono passati quasi sei anni. Se la faccio la riparazione, vabbè, vedi tu, quello è un bel pezzo, io spero che sia in mani buone, che sia funzionante, se no è fatto veramente una grandissima gagliata da Lucia, capito? Te lo dico, papà, io ne ho uno, tipo quello, un giambo della CTE, cioè dell'Alan, nuovo di pacca, non è il mio. sotto più della valvola perché lui aveva paura, ma se c'erano staccare le vecchie e mettere le nuove senza fare niente, lui aveva paura. Gliel'ho fatto, l'ho provato, perfetto, nuovo, scelgo di nuovo, mai fatto una riparazione, cioè le valvole esaurite se le ha comprate e mi ha detto ma le cambi, io ho paura, no, me lo tocca. E qua già da due mesi, non è di Sassari, due mesi, la gente fanno via 5 volte, vieni a prenderti l'amplificatore, vieni a prenderti l'amplificatore, perché non è roba mia, io roba degli altri non ne voglio. Cosa vuoi che ti dica? Intanto può succedere qualsiasi cosa, scusa, questo è nuovo, cosa di nuovo? Nuovo, dentro la scatola, nuovo, comprato nuovo, lasciato stare sempre per la radio, come ha fatto con la radio, gli si è alterata praticamente la batteria al litio, gliel'avevo sostituita. Il calamatese in cosa? Mai trattato. E gli ho già telefonato di venire a prendersi, perché non è roba mia, ma è roba di altri, non mi interessa. Già mangio vacanze di così miei. No, lui è tranquillissimo, mi ha detto tienilo lì, che i gomenti, chi sia in oggi, è come che sia a casa mia, e non ci sono dubbi su quello. Però io non vado a andare a provare a usarlo, no, non è roba mia, io non idrato. L'ho provato, l'ho testato, l'ho attaccato all'attimo, l'ho dato tutta la potenza che deve dare, tu, ed è dentro la scatola, dentro l'armadio, capito? Poi, quello tuo non so che fino a fatto, se lo dici. Vai, Lugarie. E infatti così funziona. Sa, c'è la Supercoppa là. Eh sì, magari mica il migliore. Oggi c'è Inter Juventus, la Supercoppa, il primo trofeo del 2022. Vediamo chi lo vince. Io dico lo vinca il migliore. La Juve è in buona ripresa, sembra di sì. Ho visto una grande partita contro la Roma che perdeva 3-1, ha vinto 4-3. Quindi sta continuando a vincere, sta andando benino, no, vediamo, tenendo conto che è sempre contro una grande squadra, quindi vabbè, comunque vinca il migliore carriere. Ce la baideremo, rimaniamo di nocciolini e ciccia. Sì, guardate di Bomania. Io zero, quasi mai la ora, non posso fare la schiena di niente. Come medicina non ho fatto effetto di niente, invece mi va con l'effetto. Brutto mal di gola, brutto, brutto. E io lo so, sì, no. Ma di gola è brutto, oggi da me mi ha avuto le placche e praticamente mi si è formata una palla. Non riuscivo né a inghiottire, né a deglutire, nuda. L'acqua guarda annuccia, che se no affogavo. Antibiotico, ma di brutto, sempre la rotolina, all'ospedale, perché stavo veramente male, qualche anno fa, capito? Preso da un'infezione batterica, al lavoro. Infatti dal giorno il mio dirigente ha fatto l'ordinanza agli impianti con le mascherine, quindi io sono abituato già da anni con la mascherina. Perché sai, lavorando nei depuratori non ci vuole niente, un batterio, così lo respiri, ti rimani in bocca e se ti tocchi con le mani sporche e sei fregato. Me l'ho vista molto molto brutta, capito? Avanti, vieni. Sono aspettando i finiti, dopo un attimo devo andare in bagno. Vai. No, vabbè, flacche, sì, fuoco a fuoco, cioè puntini bianchi. Beh, penso di sì, non l'ho controllata bene. E il medico io non l'ho controllato, ma l'ho vista, c'ho questo afte, che devo prendere la medicina e tamponarlo con il cotton fiocco. Perché a me quando vado a inghiottire mi fa un bel male, anche la saliva, penso di buca magna cosa che mi raschia, per carità. Io so, è così. Va bene, così a voi che ti dica, esce da noi dopo intanto. Adesso vediamo lunedì. collega Dalluni, oggi è mercoledì, io avrei fatto un intervento da dentista, non c'è un cazzo. Se ci avevo la pulizia dei denti, io la Dox Clinic, l'ho rinviata anch'io perché non potevo uscire. Pensa, ma è arrivata a punta, pare che si adatta, disegna in sciuvarata, ma è arrivata a punta, non vedo mica. Ma se viene in sciuvarata, cosa ne so, l'8, 7 gennaio, ci sei anche rientrato, ma c'era proprio vista di... Lo so, purtroppo è così, allora ti quando organizzi qualcosa è un casino. Chissà, ma finì cagando pure. Lo finirò a estate. O forse a Natale. Chi lo sa. Forse a Natale. Ahia. Avremo l'avventura. Chissà quando cazzo ne usciamo con questa storia. Clicla. Chi lo sa. Poi ce la tiriamo ancora alla lunga. Loro lo sanno, la stanno combinando. Io non so niente. E ti dirò anche che in materia sono ignorante. Altrettanto ti dico, io non lo comprendo nulla, so solo che questa cosa sta iniziando a girare un po' le scatole e basta. Non lo so. Vada come vada. Ma mica lo so più io, che l'attrezzatore si chiama Booster. L'attrezzatore si chiama Booster, sì. Quello lo sapevo perché me l'ha detto Ilaria. Infatti, ma siccome l'ho messo su coso, no? L'ho scritto su se di Sassari. Per quanto riguarda, vabbè, la prima dose a spese mie. Però quando se risulto positivo, dovrebbe fare l'ATS. Dice che l'ATS se ne sta fregando le palle, capito? Comunque penso che l'ATS sa che io sono positivo al Covid. Allora niente, non ci faccio fare nulla, passo guai. Vabbè, porto il cane qua, come ti ho detto, no? Niente di che. Però mi stava dicendo una ragazza, a quanto pare lavora all'ospedale, che devo stare 5 giorni, devo passare, puoi andare a fare il tampone. Se sono negativo, sono libero. Se sono positivo, allora devo continuare la quarantena. E si conferma, tutto ok, la stessa cosa che noi te l'aria, tutto ok, sì, automaticamente, nel momento in cui tu hai fatto il tampone ti hanno dato il risultato in farmacia, la farmacia stessa in automatico fa dei clic e comunica l'ATS, l'ATS ti manda un messaggio, se ti l'hanno già mandata, l'hanno già mandata, che appena è possibile ti convocheranno per fare il tampone molecolare. Dal momento in cui non ti convocano, tu lasci passare 5 giorni, vai e ti rubai il tampone molecolare a pagamento. Forse non puoi fare anche un antigenico. No, amore, qua costa 60-70 euro. No, faccio quello che ho fatto il primo, quello normale a 15 euro, aveva voto, cazzo, non li cavo i soldi, Lo so, sì, non fa un igienico, quello lì. Se non devi aspettare che ti chiamino loro, però ti chiamano quando praticamente vogliono loro, c'è posto, come hanno detto l'aria. Appena è possibile la chiameremo per fare il tampone molecolare, sì, a pigliare il governo della vostra mano. No, faccio quello antigenico, e basta, non mi interessano. Ma non faccio nemmeno quelli, tipo quello che ha fatto Benito, di cui non sono sicuri. Quello di farmacia è sicuro perché stamattina ho chiesto alla farmacista che c'è vicino a casa, che mi ha portato le medicine, e mi ha detto che già sono validi quelli. E niente, faccio quello e basta, speriamo bene, sennò... Ma mi dispiace, guarda, me ne rimarrei a casa, non ho problemi, è per mia madre, mio padre, per quello, che purtroppo sono qua, non posso andare da altre parti, la Maria non ci posso andare perché lei è negativa, non ti usa posso, è quello, la paura è quella, per mia madre che c'ha tante patologie. Io cosa ti ho detto, se la tempo c'è una caterina, a noi non ci fa niente, capito? Non ci fa niente, noi un sintomo influenzale un pochino più forte, chiamato come lo stanno chiamando, basta, però loro, soprattutto tua madre, cioè non è una persona giovane, capito? È una bicinetta e quindi prendere in un'altra forma più pesante, perciò cerca di starle lontano, più lontano possibile. Sì, ma infatti quando esco fuori, tipo vedi a pranzo, stavo preparando il pranzo, solo che era un bel tardi, io avevo fame, mi sono mangiato un pezzo di pane col formaggio, un po' di frutta, e mi sono dovuto prendere le pastiglie che mi hanno dato stamattina, che mi ha portato la farmacista. E niente, adesso sono restato in camera, solo che mi serve il bagno, ma ogni tanto quando mi serve vado in bagno, però lì c'è per i fatti suoi. Ma sai cosa c'è da dire anche qua? Che quello che c'è a casa non è vaccinato neanche, se non prende quello è fuffuto. Ma cosa non si è vaccinato? Cazzo ci guarda. Vedi la cosa di gioco. Se va glielo fanno subito perché sono i primi vaccini. Come l'hanno fatta Roberto, ha chiesto, su giù va, che dovrei fare il vaccino? Sì, venga, entri. E l'hanno fatto. C'è quello che mette sopra di me. Potrei anche io attaccare la casa. Ma guarda, prendi il telefono, va. Cosa? Ah, Luca, e l'ho mandato il mio, la foto del mio. Ho visto, stavo chiamando Pugna Gazzino. Pugna Gazzino. Dove stavano chiamando? Ah, hai sentito? Io c'ho tutto acceso, devo tenere tutto acceso. Beh, vedi, Marco. Aspetta, Luca. L'ho visto bene. Beh, cosa mi dici? Lo stesso che hai fatto tu o è diverso? No, io ho fatto quello antigenico. Quindi com'è? Non è la stessa cosa? Quello è salivare, la salivare è fatto, quello sì, giusto. No, mi tiraggio in crado prima in una narice, in una narice e poi nell'altra, non ha fatto bignè. Sì, comunque vabbè, negativo, che sì. Beh. E quelli quanto le pagati, Benito? Allora, in farmacia costa 7,50 euro, ti ho detto, dopo l'ho preso 6,50 euro, e sono precisi. Aspetta, non ti sento. Allora, dimmi, ripeti. Ho detto che in farmacia costa 7,50 euro, e dopo l'ho preso io 6,50 euro, un euro in meno. Ah, vabbè, se c'è il cinese si impone in gasolio, ma per carità, allora lo compro, lo provo, vuoi riprovare a vedere, magari sono negativo. Ripeto, io come ti sono riuscito a travagliare, anzi non ti rimane bloccato, sono andato al primo che c'era vicino, mi chiede informazione, e anche in ufficio me l'hanno detto, vai di lì e poi vai di là, quindi ne ho obbligato uno da una parte e uno dall'altra. Farmacia, ecco, prezzi. Sì, e vabbè, uno e meno. Adesso vediamo. Ma lo prendono di quelli. Vediamo un po'. E dato, comunque se devo aspettare. Devo aspettare a lunedì, il medico quanto deve starmene a casa. Ti ripeto, adesso domani ci devo andare in farmacia in una per il voto, che dall'ufficio non vogliono la farmacia perché ti rilascia il foglio tutto canto. Sì, in farmacia ti lascia il foglio, sì, infatti io ce l'ho. Allora loro mi hanno mandato, aspetta che mi sta costo, perché chiedo di mettere una bella bocca, ma ti stavo dicendo, loro mi hanno lasciato il foglio, però hanno sbagliato, perché sull'app io immuni, ho negativo, capito? Però sono positivo, le poi ci sono positivo, però me l'ha detto che è sbagliato. Poi vabbè, tanto che è positivo pure sul corso anche dell'app che hanno le cose risultano negativi, perché non sono aggiornati. Aspetta un attimo, bene. Bella, quindi anche tu sei a casa. Ah, aspetta, benissimo. C'è un attimo al telefono. 25, voglio vedere. Ehi, là, sto fatto. Oh, Beni. Ehi, là, la mia bloccata, stanno cercando. Vabbè. Eccomi qua, Massimiliano. Ma, che Massimiliano, sto parlando Massimiliano. Benito, mi sei? Ehi, stavo provando il box. Funziona pure, funziona tutto. Anche il box funziona meglio così. Cazzo, a me non mi ha mai dato problemi sui baracchini, cazzo. Solo quando ero una casa e mi sentivate un po', ecco ogni tanto non mi ricordo, la voce strana là. Allora, come si dice? Io ce l'avevo 140 anni addietro. Se la mia era fiammata, no, no, la mommo era bello, bello, bello. Era di Claudio. Ma anche questo è ciò. Speriamo di non averlo rotto, perché se l'ho rotto, l'ho rotto io, perché il primo giorno era perfetto. Come l'aveva fatto regolare Claudio, me l'aveva detto lui, fa lui, fa voilà. Guarda lui. Ma zitta. Ecco. Ci picchia, che vedi come ballando. Ma io l'ho messo sotto quello là, è stato acceso però l'ho messo sotto, io ogni tanto masco, cioè prima mi stava ascoltando e poi c'è l'altro ancora più giù. Bello, bello, va bene così, va bene, ci vuole lo spazio qua non ne ho adesso, però allora, volendo ce l'ho lo spazio, però poi come faccio a farmi i miei lavoretti, un casino, o posso una cosa o posso l'altra, ah comunque va bene così a me per il momento. Hai visto quello lì è un coso di televisore, ci ho messo quelli là sotto, quello sopra, e poi sopra che ho fatto il rettangolo c'è un altro televisore che va sulla PlayStation. Ma quel monitor cos'era? Una TV, Via, questo monitor non va di... non prende più i segnali, da, ma me devo segnare, me la funzione da perché gli dovevo attaccare il cavetto dietro, e me l'hanno regalato. Oh, per un attimo io stavo rispondendo a Marco. Via, Luca, non c'è? Sì. Luca, ma a tutti e due sentivi uno solo, perché eravamo in... full band, capito? Claudio! Oui. Là mi incontro in radio, come sto uscendo? È di Santiago. Sì, sono qua, che sta chiedendo un'informazione a Massimiliano. Cazzo Natali? Fondo scalarsi Natali qua. Prova Natali? Guarda qua, 1, 2, 3, 4. Aspetta, cambio radio però, aspetta, ti voglio dare un controllo più preciso, aspetta. 5, Santiago 5 qua ottava. Natalino, ma te ti sei piazzato. Guarda Claudio, 1, 2, 3, prova. Perché questa sta cambiando il radio Natali, ma la te ne hai piazzato Natali? No. Ok. Comunque qua vabbè, io sono al monte, si affondo scala. Prova Natali. Guarda Cla, 1, 2, 3, prova. Cazzo, sei 9, 10, con picchia 9, 15, tu hai piazzato l'antenna. E vai. Piazzato. No. Sicuramente, vestita peraltro con indumenti esterni, no? Questo è il segnale mio. Mi è arrivato l'accordatore, capito? Ah, lo di luscio, kappa, pompa. Claudio, dove la danno la partita? Canale 5, Ugarietti, canale 5. Tu stai sparando la voce, ma porca puttana. Perché non devi parlare molto, devi stare un po' in silenzio. Infatti, riprendete voi. Se no è un casino, capito mi hai. E quindi va bene? Sì, e lui va bene. E adesso come finisco queste incombenze? Vediamo un po' di piazzare l'antenna. Là. Ancora non ho potuto piazzare, ho tante di quelle cose da fare, quindi non ho la possibilità di poterla piazzare. Ehi, vabbè, con calma Natali, passo con l'altra radio. Ehi, cappa. Mi sembra molto quelle caramelle, quelle Olds Mentolipus, cioè non posso uscire. Ui, ui, la gente che sconta gente, chi c'ha cosa? Gesù Cristo mio! Sto salendo anche il picchio a Tattari. Grazie, domani devo andare anche all'ospedale a farmi una radiografia, dimmi tu. Oh, chi è? Allora, da Pompelli. No, da Pompelli, sono a zero. Oh, dammi tu, allora già mi intendi, vedi che la mamma c'è un po' di spray, guarda come è ritornata la voce. sveglia. Ma adesso allora già mi difendi. E cosa? Ma io non lo sento perché cuocoma è bene. Tu sei cuocoma, ne sarai tu. Hai capito bello bene? Da dito, sì, allora già mi intendi. Ma lei mi sente Natali? Mi senti basso? Sì, lo sento, benito, va. Sì, a me mi senti basso. Perché da giù mi senti basso, anche da qua. No, da lì ci sento benissimo. Ah, ok. Vedi, secondo com'è? No, non fa, aspetta. Ma da giù come mai ci sento basso? Non risolvo, cazzo è cucata pure l'antenna, se coricata. Ah, ecco, allora, vero difetto, ero preoccupato, ma come mai? Ah, Luca lo sento basso da giù, quando lo sentivo bene. No, ma se coricata oggi mi dà il vento forte e forte, strano ma vero. Ne faccio anche i tirati per non coricarsi, se cucata lo mattesse. Ehi, vabbè, no, niente, Lucia, c'è Sabrizia. Tutto ci guadrizza. Non è un problema. Infatti un secondo il bianco, riprendo subito, vai bene. Lei acquappa. Ma lì, perché ti stavo dando il controllo, ma adesso non mi hai sentito. Santiago 8, Radio 4, ti sento. Ma la colpa è mia che c'ho l'antenna bassa, Beni. C'ho l'antenna bassa nel tetto. Devo mettere l'antenna nuova, è anche rotta questa antenna. È un miracolo che ti ho sentito, là. A me mi sta arrivando benissimo, quasi 9. Lo faccio segnare il tuo, cioè. Quasi 9 è Radio 5. Ehi, vabbè. Va bene, e lui c'ha anche l'antenna messa male, senta non ci vuole l'antenna, ti arriverà più forte di me. C'ho l'antenna che quando piove mi salgono a 2,5 le stazionali, sono sotto accordatore per poter parlare, adesso non ne ho stazionali perlomeno, ne ho poche, da. Però come piove mi bagna la bobina e mi manda tutto in corto. Ah, è lì dove Natali, pesce se no, sei più visto. Raga, chi non si è più visto? E il tuo vicino? No, se mi subì nessuno, no. Allora, arrestato, informati. Meglio, se l'hanno arrestato meglio, tanto io la devo mettere da fuori. Mi prestano una scala da 10 metri, figurati. A me me ne bastano 6 per salire da lui. Così ne avvaro, ci piazzo l'antenna. Raga, mi viene tutti i cosi che giù di là e da voi dalla piazzetta. Intanto adesso non si può uscire, perlomeno io non mi posso muovere. Aspettiamo, già si fa lo stesso. Infatti, dalla casa, piano piano, mi arrabbiato, e via. Ma giù il barro che ce ne ridendo 30 rugoso, 30 rubiciari da 4 metri. Ringato, l'ho comprato nuovo, 4 metri, così esce 3 metri almeno dal tetto. Vabbè, attenzione, ma anche se non lo buia. Sì, così mi riseguo le mani. Non puoi portare su. Un palo da 4 metri, come faccio a portarmelo su? L'ho lasciato dentro il portone, già non dà fastidio lì. Gappa, gappa, vabbè. C'è un pezzo unico, mi, da infilare dove c'è dove c'è l'antenna adesso. Lo infilo lì, mi ripongo 1,30 m, tra, stanco ed è fatto. Vabbè, certo, lì sì, se va bene così, si può fare. Vabbè, se siete qua, sentiamo tra un attimino, ok? Non so chiama Marco che è sceso a fare spesa, poi mi chiamerà 525. Metto un cassino, va. No, ne la venimo più, su cazzo da bandemia. Non ne venivo pensieroso, se continua così è un macello. Cazzo, già ne sta contagiando poco di gente, già. Io non sto uscendo manco da casa, mi domandi di andare a girare a farmi la radiografia. E beh. Anche alle 7:30. Dunque dove vai sempre la frizza, sei più bilinghivi. Passo temendo. Oh via, yeah. Hanno aumentato che si contagia a vista d'occhio. Vabbè, le ferie, le feste, la gente giunta lavora, e se non arrivata che se non ne punti durarsi. contaminazione. Infatti non è colpa di chi se lo prende, è che l'hanno contagiato, cosa vuoi fare? C'è sempre il furbetto che non è vaccinato, che magari o c'è qualche asintomatico che neanche lui lo sa che è positivo, capito? Quindi da cui paga. Chiuso tutto, questa la mia diventata a zero, poi andrò a Babri e se non ne dovrò da Cundì. Allora il discorso è questo, che loro hanno fatto entrare cani e porci da fuori, e fuori che ce n'è, noi stavamo bene in compenso, è tutta la merda che è arrivata da fuori. È quello che sto dicendo io, è proprio visto. Allora devi venire a Rà, non farli entrare, se no non usciamo più, no, ne usciamo più. Anzi, andiamo e peggioriamo, mi sa che quest'anno siamo andati proprio malissimo, non male, non malissimo. E meno male che siamo ancora in zona bianca, ma tanto disarano il dono, anzi, siamo fortunati che Natale non ci hanno chiuso. Ma quello si già è vero, ma già ci sono tramandato una tessera, anzi, non di più, ma diciamo che abbiamo lavorato, siamo partiti in un ritmo. Infatti. Ma solo la c'era di bello, se quando giravi in carriera, camminavi, non avevi traffico, non avevi nulla. E vabbè, e cosa vuoi qua? Oh, io potrei stare casino, non conosciamo più. Forse sta sempre mutando da un lato dall'altro. Vai tu, ma noi non so cosa, la terza dose si chiama booster. Cazzo, uno scooter è diventato questo virus. Ah, non si capisce niente. Non ti ho capito bene cosa hai detto. Un attimo, sto parlando al telefono. Ah, ok. Ebbene, Natali, quando hai deciso di piazzare questa antenna? Devo fare un sacco di visite, Luca, devo fare, cosa ho avuto? Visite, analisi di Rusanga, non ci fa poco di cose. E paghi se non ha giubiazzato, a chi sono impegnato, un poco di tempo. Ah, ho capito. Casino. Anche io dovrei sistemare questa qua, smontarla, pulirla bene. E mi sa che ricambio il capo e metto un altro tipo di capo, anche adesso vediamo. No, che vuoi sudare a poco, mi. Ho RG58 e non lo so se ne ha neanche 203. La GPC non ha nessun tipo di capo. Figurati. Scusaro, gli stavo chiedendo il 155 e non ne ha. Dunque. Natali, su e me c'è solo voi, dipende da quanti metri ne voi c'è, capito? Ma ragazzi, la GBC va a un montinaggio, capito quanti cazzo è? Tutta una padussi, batteria in terra, un casino, non è più un negozio questo, ma è lui che si è trasandato un bel. Comunque su e me c'è solo voi. E allora vediamo, dai. Grazie Giuseppe, naturalmente tutti i numeri a Leone, rimanete in diretta. Perché già una calata già ce l'ho di 155. Stiamo occupando oggi quello della... ci metto la X30. Quindi detto Gigi di bici. Il 213 già c'è per l'antenna. Insieme. Aspetta che sto controllando, scusami. Cavo qua a Siale, H155. Quello lì è per... cavo coassiale Melden H150 schermatura, lascia vedere, no, 40 metri, allora 40 metri costa 62 euro più 17, che briglia strano, questo è un bel. E poi c'ho 20 metri di RG58 nuovo. Qua è già pronto col PL, chi su gli ha messo il valore di solo? Ah, ci mette anche il bipolo. Capito. Vabbè, io quello già si trova tutto su internet. E la carrucola c'ho già, il braccio per il bipolo, il braccio per la X30, c'ho tutto. Tutte le cose, cioè, è pronto a fare Antello. Senti un bel televisore. Aspetta a vedere che abbasso la radio, vedete? Abbassato? Adesso sì. Signor Marcello, si sente adesso la voce bene? Adesso sì, il televisore è poco. Lo so,